Io mi chiamo Pierpaolo, faccio parte di Campi Aperti da una decina di anni più o meno e vivo e coltivo un podere che sta dentro il parco di Montesole, un vecchio podere che ha conservato alcuni tratti antichi anche proprio nell'assetto del podere, quindi sono ancora le piantate, ci sono un sacco di alberi di frutti antichi e di varietà antiche eccetera. Io ho la presunzione di fare un po' il custode di questo posto e di una, diciamo così, approccio alla produzione agricola che sia un po' più olistico rispetto a quello che si vede nell'agricoltura moderna, insomma, per cui nel mio podere sto provando con grandi errori, perché imparare a fare il contadino non è semplice, a mantenere il ciclo chiuso, che era la caratteristica di questa terra che mi è stata consegnata dal custode precedente. Campi Aperti mi ha accolto con questo mio progetto e rappresenta la unica probabilmente possibilità per questo tipo di progettualità di insediamento rurale di avere una chance economica appunto di approccio al mercato, che altrimenti sulle piccole produzioni di piccole quantità di varietà antiche e non specializzate ormai ha chiuso tutto, perché è dominata dall'agricoltura industriale che richiede grandi quantitativi a basso prezzo con bassa intensità di manodopera eccetera. Questo invece Campi Aperti rappresenta una alternativa praticata a questo modello e che quindi permette anche ai piccolissimi produttori come siamo noi in molti casi permette un approccio al mercato che garantisca una remunerazione del lavoro e di questo prezioso lavoro che fanno i produttori di Campi Aperti di custodia della terra, dell'ambiente che ci circonda, della dignità del lavoro eccetera. Questo è un po' il senso dell'appartenenza a Campi Aperti e perché ho scelto di stare qua dentro questa associazione. E in questi 10 anni di appartenenza a Campi Aperti è cambiato in qualche modo diciamo il rapporto anche poi con la città? Ma sì, io vedo che intanto la città, nel senso dei cittadini, apprezzano sempre di più la nostra presenza. Noi veniamo sollecitati da più parti ad aprire mercati dove possiamo e dove le nostre forze ce lo consentono, volentieri, perché siamo convinti che questa sia l'unica alternativa possibile e forse anche l'unica che ci potremmo permettere da qui a qualche anno, visti i disastri che stiamo combinando con gli altri modelli. Quindi noi volentieri apriamo nuovi mercati e ci colonizziamo, virgolette, o ci facciamo colonizzare dalla città, forse è meglio questa seconda termine, ci facciamo colonizzare la città e insieme ad altri soggetti che in città sono presenti e attivi apriamo diversi mercati, quindi questa cosa si sta diffondendo. Ormai siamo arrivati ad 8 mercati aperti, all'inizio è stata dura perché a Campi Aperti è nata in un periodo in cui ancora non esisteva una norma che regolava i mercati contadini, quindi siamo stati dei pionieri per qualche aspetto. Da lì è chiaro che un po' alla volta, prima attraverso i bandi, le convenzioni dirette, tutta una serie di questioni con il quale si è fatta fatica in un rapporto difficile e complicato con la burocrazia cittadina, siamo però riusciti a consolidare una presenza. Da quel momento del consolidamento, negli ultimi 4-5 anni, c'è stata la fase espansiva, un po' perché appunto in città veniamo appunto sollecitati, richiesti, contattati da soggetti che vogliono averci nel loro territorio, nella loro zona, un po' perché fortunatamente gli agricoltori biologici crescono in numero e crescono le produzioni e quindi c'è una offerta che in qualche modo bisogna accogliere e noi cerchiamo di facilitare, di sostenere e quindi ci stiamo espandendo. Questa cosa è stata accompagnata in una certa fase dal comune, che ha accordato a Campi Aperti una serie di facilitazioni anche nell'accesso ai luoghi della città. Ultimamente mi sembra che ci sia una, come dire, un ritorno a un approccio più burocratico che ci rende più complicata la vita, questo è fuori di dubbio. Poi probabilmente noi siamo cresciuti più di quello che la burocrazia comunale riesce a reggere. Nel senso che probabilmente a questo punto è proprio necessario pensare una qualche politica attiva nei confronti dei mercati contadini di vendita diretta, che non sia solo concedere a richiesta degli spazi, ma da parte del comune pensare una regolamentazione ad hoc che quindi preveda delle facilitazioni, soprattutto nei casi come il nostro, dove le nostre realtà piccole e piccolissime si autotassano per sostenere il mercato e questa cosa, quando a fronte di una tassazione per l'uso del suolo pubblico, per la tassa dei rifiuti, che per carità sono tutte giustissime, però a fronte di questo tipo fa molta fatica a reggere. Quindi abbiamo da ripensare, perché per adesso ha funzionato che appunto le facilitazioni che il Comune ci ha concesso erano relative a una riduzione delle tasse di occupazione del suolo pubblico. Questo forse va pensato in termini strategici e non eccezionali come è successo con noi fino adesso, e sarà probabilmente una prossima campagna nostra quella appunto di lanciare una proposta per una regolamentazione diversa della concessione degli spazi ai mercati contadini, che tenga in considerazione la valenza come dire, complessiva di queste esperienze, che va al di là dell'offrire che già è tanto cibo buono, sano, di qualità, fresco ai cittadini, ma investe anche tutte le ricadute ambientali che la produzione agricola ha e che il nostro modello riduce, come dire, in termini di impatti, e anche gli aspetti sociali. Noi abbiamo molti produttori giovani, giovanissimi, che stanno trovando uno sbocco lavorativo nel lavoro in agricoltura. La nostra agricoltura è un'agricoltura che produce lavoro, perché è un'agricoltura ad alta intensità di manodopera, e quindi anche questo aspetto secondo noi andrebbe considerato. E poi appunto siamo, come dire, in città, costruiamo spazi sociali alla fine. La socialità è uno degli aspetti più importanti dei nostri mercati, dei quali andiamo più orgogliosi. Campi Aperti non è un'associazione di produttori, ma è un'associazione di cittadini che insieme, produttori e coproduttori, come chiamiamo noi chi viene a fare la spesa da noi, costruiscono le occasioni di incontro e di costruzione di un'economia che guardi più alla relazione che non al profitto. Per noi è la parte centrale, diciamo, del cuore di questa proposta.